Buongiorno, benvenuti in America 24, da New York Mario Platero. Beh, l'avrete riconosciuta subito, è la colonna sonora del film The Hateful di Ennio Morricone che ha vinto ieri sera l'Oscar per la miglior colonna sonora originale di un film. Devo dire, è stato uno dei momenti più commoventi della serata, soprattutto per noi, perché Ennio Morricone aveva ricevuto ben 6 nomination nel 2006, aveva avuto un premio alla carriera, ma mai aveva vinto l'Oscar, e dunque sentiamolo perché merita questo suo discorso emozionante, emozionato in italiano davanti alla platea di Hollywood. Sentiamolo. Dedico questo film, questa musica e questa vittoria all'Oscar a mia moglie Maria. Avete sentito, ha ringraziato, salutato la moglie Maria. Beh, almeno un buon momento per il nostro cinema, per i nostri artisti. Poi il grande premio per miglior attore a Leonardo DiCaprio. Beh, tutti se lo aspettavano perché la sua interpretazione nel film The Revenant, devo dire, è stata davvero magistrale, e quindi sicuramente lo meritava, però lo avrebbe meritato anche prima. DiCaprio è un grandissimo attore, un attore straordinario, eppure non aveva mai vinto un Oscar, e dunque era giunto il momento per lui, anche perché sicuramente questa sua interpretazione era davvero la migliore. E a quel punto c'è stato un messaggio forte, un messaggio da parte di DiCaprio per l'ambiente. Making The Revenant was about man's relationship to the natural world. Climate change is real, it is happening right now. Dice: dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo smetterla di procrastinare. Questo film The Revenant, tra l'altro, ha dei paesaggi meravigliosi, è un film che ci aiuta a riavvicinarci alle grandi bellezze naturali. Dice: io non prendo mai per scontate queste bellezze naturali, come, dice, non considero questa serata e questo momento affatto scontato. Too many women and men on and off college campuses are still victims of sexual abuse. Ecco, avete sentito il presidente Joe Biden che annuncia un'iniziativa per proteggere i giovani dalle violenze sessuali che dilagano nelle scuole, negli ambienti pubblici, e ha avuto come spalla niente meno che Lady Gaga. Sentiamola. Till it happens to you, you won't know how I feel. Ecco, Lady Gaga, bravissima, lei stessa oggetto di violenza sessuale, ha interpretato un suo classico, Till It Happens to You, e un messaggio molto forte legato alla decisione di premiare un film di denuncia come Spotlight. Quindi il messaggio sottostante di quest'anno che gli Oscar portano è un messaggio impegnato e di denuncia. Proteggiamo i giovani. Ecco, un impegno politico che ha scatenato qualche spiritosaggine su internet. Vi cito fra tutti quella di Morocca, devo dire molto simpatica, giornalista della CBS, che ha twittato: gli Oscar sono ora più politici della politica, e la politica è più di intrattenimento degli Oscar. In effetti, con quello che vediamo in campagna elettorale, è vero. L'ultima di Donald Trump è stata quella di citare una massima di Mussolini: meglio vivere un giorno da leone che 100 anni da pecora. E Trump ha detto: sì, sapevo benissimo che era di Mussolini, ma qui quello che importa è il messaggio è un messaggio importante che condivido. Sembra sempre più probabile che lo scontro sarà fra lui e Hillary Clinton, che ha vinto addirittura con il 73% la Carolina del Sud. Domani, super martedì, giornata decisiva per le elezioni americane.